peanuts. Soft peanuts, soft peanuts. Soft peanuts, soft peanuts. Soft peanuts, soft peanuts. Salt peanuts. Jazz on megahertz. Soft peanuts, soft peanuts. Soft peanuts, soft peanuts. Alla console Sandro e Alfredo. Salve a tutti, sono Sandro Baroni da Salpinaz. Oggi ascolteremo tre dischi, come di consueto, delle ultime produzioni dell'etichetta ECM. Diciamo che fa parte ormai l'ECM da tempo delle etichette discografiche storiche che hanno un po' segnato quella che è la storia del jazz per quanto riguarda l'ECM dagli anni 70 in poi, e ha avuto anche il merito di proporre alcune pietre miliari della storia di questi anni, degli ultimi 50 anni più o meno. E grazie al Manfred Ecker, il patron, che ha con pregi e difetti ha guidato questa etichetta discografica e quindi le scelte artistiche. Per la verità, negli ultimi anni, e ormai già da diversi anni, che difficilmente si ascoltano dei momenti innovativi o importanti, diciamo, delle tappe importanti di questo passato. E questo per una serie di ragioni che sono principalmente di scelte artistiche fatte da Manfred Ecker, che è decisamente un patron molto, molto, come dire, con le idee molto, molto definite e poco disponibili a confronti particolarmente vivaci. E ascoltiamo alcuni che secondo me sono tra le pagine più belle, comunque, sicuramente. Intanto questo quartetto di Giulia Ulsmann è una pianista tedesca che ha ormai quasi una sessantina d'anni, quindi già da diversi anni fa parte incide per l'etichetta ECM, e questo secondo me è una delle prove più riuscite. Viene accompagnata, ormai lei abita da tempo a Oslo, quindi si muove nell'ambito della incredibile quantità di musicisti norvegesi, e la formazione è, oltre a lei al pianoforte, al sax tenore Uli Kempendorf, Mark Mullenberg al contrabbasso, Erik Koberling alla batteria, e poi si aggiunge anche in alcuni brani un corno, tromba o corno, di Hildegund Hosseth. E diciamo che è formalmente sempre perfetto quello che esce dall'etichetta ECM, e in questo caso direi che è anche ha una certa grinta, una certa vitalità nelle composizioni e anche nelle esecuzioni, che sono sempre impeccabili peraltro. Il disco è intitolato Under the Surface ed è uscito da poche settimane. Ascoltiamone alcuni brani. Thank you. Thank you. Era il quartetto di Julia Ulsman con disco Under the Surface. Julia Ulsman è dal 2008 che incide e produce dischi per l'etichetta ECM, quindi è già da molti anni che fa parte di questa produzione, anche di questa visione musicale, che è sempre piuttosto morbida, cameristica quasi, in diversi casi, o in alcuni casi decisamente cameristica, come per esempio nel prossimo disco, sempre è un duo in questo caso, si tratta di François Couturier al pianoforte e Dominique Pifarelli al violino. Anche come formazione, come timbrica, richiama sicuramente la musica cameristica in forma di sonata. E sia Couturier che Pifarelli lavorano, incidono per l'ECM già dalla metà degli anni 90, quindi sono 30 anni. E anche loro sono musicisti che sono intorno ai, anzi hanno passato i 60 anni per la verità, e il disco che hanno non è la prima volta che suonano in questa forma in duo, e comunque anche in questo caso è la prova di una ottima intesa e anche di una capacità espressiva molto intensa, molto, molto bella. Il risultato, a mio avviso, è sicuramente tra le cose migliori che sono state prodotte da questa etichetta discografica nell'ultimo anno più o meno. Il titolo del disco è Prelude and Songs, quindi sono naturalmente, ecco, no, sono in questo caso no, sono per lo più delle interpretazioni, rivisitazioni di temi classici. Quello che ascolteremo intanto è la canzone degli amanti, dei vecchi amanti, che è un classico bellissimo della storia della musica, della canzone francese. E poi The Nightingale Song in Berkeley Square, che anche questo è un classico, con Les Ombres, una parte delle Ombres. Insomma, e comunque sono due composizioni che riescono particolarmente bene anche all'intesa tra questi due ottimi musicisti. Ascoltiamolo. Thank you. era François Couturier con Dominique Pifarelli. Entrambi fanno parte, come dire, di una stagione storica della musica europea, e non solo europea, direi, della storia del jazz della seconda parte degli anni del Novecento. Una stagione che ha avuto pagine magnifiche. Direi che l'ECM, peraltro, è probabilmente l'etichetta discografica che meglio testimonia poi anche queste stagioni. Per esempio, la Julia Ulsman fa parte di quel gruppo di musicisti, di quell'ambiente musicale del Nord Europa, che ha scritto pagine decisamente importanti, come peraltro appunto Couturier e Pifarelli fa parte dell'ambiente francese. E, ecco, ma non solo, diciamo, la testimonianza che ha rappresentato l'etichetta tedesca non è soltanto nell'ambito europeo, ma anche naturalmente in quello di oltreoceano. Intanto bisogna dire che l'etichetta ECM deve la sua vita, la sua, come dire, la lunga stagione di produzioni a un artista che ha legato la sua attività a questa etichetta discografica. Si tratta di Keith Jarrett, che è sicuramente uno degli artisti più importanti della storia del jazz nella seconda metà del secolo scorso. E Keith Jarrett, peraltro, ha conosciuto Manfred Eicher, il produttore appunto dell'ECM, a Bologna, in occasione di un concerto che diede al Festival del Jazz, nel quale poi era presente come spettatore anche Manfred Eicher. E da questo incontro è nata tutta la produzione discografica di Jarrett per questa etichetta. Prima di questo, Jarrett, diciamo nello stesso periodo in cui venne in trio a Bologna per un concerto al festival, era in tournée in Europa con Miles Davis, infatti partecipava a questa formazione. Jarrett aveva ormai maturato un'esperienza robusta sia con Miles Davis, ma anche precedentemente con Charles Lloyd o inizialmente con Art Blakey. E in questo caso si presentò appunto in piano solo, e per qualche anno ha prodotto diverse cose storiche per piano solo. Penso per esempio al Cole Concert, che è uno dei dischi di jazz più venduti in assoluto nella produzione jazzistica. E, ecco, Jarrett diciamo che ha concluso la sua attività artistica perché per cause di salute ha dovuto interrompere, non è più in grado di fare concerti, quindi non rimane che la possibilità di proporre dei nastri registrati, non usciti come disco, e che rimangono comunque testimonianze fondamentali, importanti. Appunto, qualche mese fa, insomma alla fine dell'anno scorso, è uscito The Old Country, che è in pratica la seconda parte di un disco, di un concerto, che ha visto la produzione di un disco a suo tempo, appunto nel 92. Il disco era appunto registrato dal vivo con una formazione tra l'altro diversa da quella consueta di Jarrett. Infatti c'era Gary Peacock in trio, era Gary Peacock al contrabbasso, e alla batteria non c'era Jack DeJohnette ma c'era Paul Motion, che peraltro era stato anche il batterista col quale aveva inciso negli anni 60 alcuni dischi per l'etichetta Atlantic. Quindi una vecchia conoscenza e, come dire, una ritrovata intesa senza nessun tipo di problema. è uscito appunto l'anno scorso questa testimonianza di Standard. Sono tutte interpretazioni di Standard. Era consuetudine per Keith Jarrett quello di inserire nei propri concerti non solo musiche proprie, ma specie nei bis, di inserire qualche interpretazione di Standard famosi. In questo caso ascoltiamo un classico di Thelonious Monk, String No Chaser, e un classico eseguito, diciamo, che è diventato famoso per l'esecuzione di Bill Evans, tanto per anche sottolineare un omaggio costante che veniva fatto da Keith Jarrett per Bill Evans come suo maestro naturale, per l'importanza che aveva avuto nella sua formazione. Ascoltiamo queste due bellissime interpretazioni. Thank you. Questo era il trio di Kay Jarrett con Gary Peacock e Paul Motion nel The Old Country, More from the Deer Head Inn. E disco, appunto, questo chiude anche la trasmissione, tutta dedicata, diciamo, alle ultime produzioni, le migliori ultime produzioni dell'etichetta tedesca ECM. E con questo diciamo che possiamo salutarci. Vi ricordo che l'intera trasmissione, anche le indicazioni discografiche, le potete trovare nel nostro sito Radio Città Fuji con la sezione musica playlist. Salve a tutti, alla prossima.